triste di ieri. Il tempo di un minuto ed eri già lontana e salutavi le tue nuove occasioni. Sì, mi hai risparmiato i tuoi pensieri più neri e hai trattenuto un mare di aggettivi. Quel giorno eri molto più bella di ieri. Il rumore dei miei sogni l'hai sentito, è come liquirizia che ti sporca il dito. I ricordi d'infanzia, il pallone e le seghe che tagliano gli alberi e la scopa delle streghe. Quel giorno ero molto più cieco e sordo di ieri. Dammi un po' di tempo ed uscirò da questo bosco, anche senza briciole la strada la conosco. Non ti preoccupare, mi saprò difendere dai tentacoli di un Dio che non è più il mio. Bussato alla tua porta e lui ha detto vieni, con la dovuta calma tu mi avresti preparato al peggio, ma la fretta dà cattivi consigli, a volte è meglio un lungo sonno che un brusco risveglio. Tu eri molto più nuda e puttana di ieri. Se devi urlare fatti un giro a piedi, ma se ti siedi no, non ti addormentare. Gioca col cavallo, la capretta ed il maiale, ma guarda bene di non farti del male. Quel giorno ero molto più pericoloso di ieri. E forse la materia è solo vuoto, e forse i corpi non si toccano davvero, ma il mio stomaco è uno stagno pieno di ranocchi, e piango come se Galvani mi mettesse gli elettrodi negli occhi. Quel giorno ero molto più solo di ieri. Del mio calesse, il legno di foresta. stare finito a mano.